Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Andrea Tornielli, 52 anni, scrittore e giornalista della Stampa, vaticanista, laurea in storia della lingua greca, sposato con 3 figli, vive tra Roma e Milano. Il suo ultimo libro è Il nome di Dio e misericordia, intervista con Papa Francesco. Allora, Andrea, un'intervista al Papa, è più difficile prepararla o farla? Sicuramente prepararla. Perché? Perché bisogna pensare in percorso, immaginare le domande, poi una volta che si è lì si fa facilmente. Senti, ma scattano molte autocensure nel pensare cosa chiedere oppure no? Nel caso di questo libro il tema era soltanto la misericordia e dunque sono dovuto rimanere in un ambito nell'ambito che mi ero prefisso. Beh, però la misericordia mi sembra che per Papa Francesco contiene tutto, quindi diciamo dalla chiave della misericordia si può arrivare un po' dappertutto. Sì, certamente, anche se l'idea mia era quella di far emergere il suo cuore ed era un libro che doveva lasciare tante porte aperte e dunque non affrontare i casi specifici, neanche quelli più controversi. Ma poi è arrivato il grande giorno, sei arrivato, cosa è capitato? Dove è capitato? È capitato nell'appartamento del Papa, in quel piccolo appartamento che c'è a casa Santa Marta. Era un pomeriggio di luglio, faceva molto caldo quando abbiamo cominciato a parlare. La prima cosa che mi ha chiesto è stata quella di togliermi la giacca. Senti, ma quanto è durato tutto l'incontro? No? L'incontro è durato tutto un pomeriggio, poi abbiamo continuato a lavorare via email o per telefono, scambiando certo. I testi e correggendoli. E qual è stata la prima domanda? Ma la prima domanda è stato il che cosa è la misericordia per lui, il significato di questa e il perché ha fatto questo giubileo. Ma senti, ma tu registravi o prendevi appunti? Io avevo portato con me non uno, bensì 3 registratori. Per sicurezza. Per sicurezza, e non prendevo appunti. E non avevo neanche i fogli, tanto che la prima cosa che lui voleva fare mi ha detto: ma non hai la carta per prendere gli appunti, voleva andarmela a prendere. Io l'ho fermato perché registrando non c'era bisogno. Senti, ma immagino che il Papa, appunto, l'hai detto, ti ha messo subito a tuo agio. E in questo agio, metterti a tuo agio, tu hai ritrovato subito il gesuita che c'era in lui oppure no? Sì, devo dire che non era la prima volta che lo intervistavo, ma la terza da Papa, la quarta contando un'intervista che gli avevo fatto da cardinale, dunque c'era una certa consuetudine. C'era già una consuetudine. E la caratteristica psicologica che colpisce di più subito qual è? È la capacità di stare di fronte alla persona con cui parla, con una grande attenzione verso la persona con cui parla. Dunque ascolta. Ascolta, è un uomo che ascolta. Senti, ma il gesuita dove l'hai visto subito? Ma io devo dire che lo vedo nella capacità, nella concretezza di rispondere, avendo sempre presente esempi e situazioni concrete. Cioè quando parla di persone, di cose che gli sono capitate. Sì, non è mai astratto. Anche se teorizza. Non è mai astratto, anche se poi trae un insegnamento. Certo. Ecco, quindi ha una vocazione da padre spirituale, diciamo. Questa è la caratteristica principale che io ho sempre visto in lui. Ma secondo te quando l'hanno fatto Papa, un gesuita Papa? Non lo so, è un bel problema perché i gesuiti obbediscono al Papa e hanno il voto di obbedienza quello di non accettare cariche nella Chiesa. Lui già questo di fatto l'aveva messo in contraddizione. Perché aveva già accettato di fare arcivescovo, però certamente era una cosa per noi vaticanisti impensabile. Che un gesuita diventasse Papa. Senti, dice che hai avuto l'idea dell'intervista dalla frase del Papa tornando in aereo quando parlando di omosessuali ha detto: chi sono io per giudicare? In realtà non è così. L'idea del libro nasce dal fatto, mentre ho sentito che lui annunciava il giubileo straordinario della misericordia. Quello è stato il momento. Sì. Ecco, questo appunto, giubileo della misericordia, ma esattamente cosa vuol dire secondo te, Francesco? Io credo che voglia portare al centro dell'attenzione ancora di più questa caratteristica divina, il fatto che Dio ci ama con un amore sconfinato, smisurato, e questo amore sconfinato e smisurato risulta ai nostri occhi umani persino ingiusto. Ingiusto. Ecco, ma un Dio solo misericordioso non può sembrare appunto un Dio un po' debole, un po' fragile? Sì e no, nel senso che Dio è anche giustizia, il Papa su questo insiste molto, però è in fondo la fragilità, la tenerezza e se si vuole anche l'impotenza, il Papa ha parlato di impotenza onnipotente di Dio, sta nella storia del Dio cristiano che sceglie di farsi uomo, un bambino certo. In condizioni fragili. Senti Andrea, Ti è sembrata felice l'immagine della chiesa ospedale da campo? Mi ha molto colpito, però direi di sì. Perché? Perché è la raffigurazione del fatto che oggi, di fronte alle tante ferite che porta l'umanità, c'è bisogno di tamponarle per far sì che la gente non muoia, non di un'idea di chiesa dogana che sta a fare gli esami specialistici alle vite di ciascuno. Quindi sì, va bene, misericordia, sì, ospedale da campo, quindi accoglienza di tutti, però sempre in aereo il Papa ha detto: se toccano mia madre, senti qua. È vero che non si può reagire violentamente, ma se il dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno, ma è normale. Insomma, misericordioso sì, ma fino a un certo punto, diciamo. Sì, quello era un esempio fatto il fatto terribile degli attentati a Parigi, ma era un richiamo alla responsabilità, il fatto che non può esistere l'irresponsabilità, e bisogna, quando si parla, tener conto che della fede di milioni di persone, bisogna cercare di avere un rispetto. Vabbè, insomma, chiesa ospedale da campo per tutti, anche per i preti pedofili che si pentono? Io credo di sì, anche se prima di pensare ai preti pedofili che si pentono bisogna pensare alle vittime. Nei decenni passati si è pensato poco alle vittime, al primo posto devono essere le vittime, anche di questo ospedale da campo. Senti, il Papa parla spesso a braccio, ecco, può capitare che si contraddica in questo modo di parlare che ha lui, e poi è difficile correggersi, c'è questo rischio, insomma? Il rischio c'è assolutamente, anche se credo che lui finora non è che si sia contraddetto, magari ha detto delle cose che non gli sono uscite come voleva hanno dato adito a interpretazioni, però questo non è una novità di questo pontificato. Questo certo. Ecco, un monaco benedettino tedesco, dopo la relazione di Bergoglio, ha detto però: non bisogna dimenticare la trappola dell'umanizzazione del rito, perché dopo 10 volte che dici buonasera non significa più nulla e la semplicità dei gesti diventa banalità. Ecco, Papa Francesco l'ha superata questa trappola, secondo te? Mi dispiace di contraddire questo benedettino che confonde le cose. Il rito è il rito ed è la liturgia. Sì. Il fatto del come il Papa saluto si presenta non c'entra niente né col rito né con la liturgia. Io sono stato tante volte in Piazza San Pietro e la gente, quando il Papa dice buongiorno, lo risaluta dicendo buongiorno. Non vedo nessuna banalità. Senti, Antonio Socci, giornalista, nella sua lettera aperta al Papa Francesco accusa il pontefice in qualche modo di non aver fatto nulla per evitare che il suo messaggio venga frainteso, e si riferisce molto ai suoi incontri frequenti, insomma, che ci sono stati con Scalfari. È un rischio che corre o no? Certamente è un rischio che corre, anche se devo dire che mi riesce veramente difficile ridurre il pontificato di Francesco e le centinaia di suoi messaggi soltanto con 3 frasi dette male o interpretate male da Scalfari, che vengono continuamente riproposte come se questo fosse Papa Francesco. La gente segue il Papa e vede che non è in queste frasi. Senti, torniamo al Giubileo della Misericordia. Procede come il Papa se lo immaginava, secondo te? Io non ho idea come se lo immaginasse. Certamente lui voleva un evento. Non ne avete parlato? No, di questo come svolgimento no. Certamente voleva un evento, un giubileo con meno eventi e più sacramenti. Dunque il bilancio si può fare a livello di chiese locali. Ecco. Però sul piano degli eventi, diciamo che è decollato solo con l'arrivo di Padre Pio a Roma. Sembra strano, lo è o non lo è? Non lo è, nel senso che sia Padre Pio e anche, seppure più in sordina, Padre Leopoldo Mandic, i due santi, sono due grandi santi popolari e che riportano tra l'altro al centro la confessione e una fede semplice e una devozione popolare alla quale il Papa è molto legato, dunque non c'è sorpresa che le folle siano arrivate per questo. Ecco, Andrea, senti, Francesco è anche un Papa che cambia la storia in qualche modo. Il grande incontro a Cuba con il patriarca russo Kirill, che cosa significa? Che significato gli dà lui? Più un significato politico o religioso? Un significato assolutamente religioso. Era un sogno da 20 anni nel cassetto dei predecessori Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Infatti Wojtyla non ce l'aveva fatta. Non ce l'aveva fatto per poco. E Ratzinger aveva sfiorato la possibilità, non ce l'aveva fatta. Ci sono create le condizioni, però dal punto di vista del Papa è eminentemente religioso. Però attenzione. Che però ha anche effetti politici. Sì, perché noi non consideriamo un fatto l'unità dei cristiani e l'ecumenismo. Tutte le volte che si fanno dei gesti unità dei cristiani, questo non vale solo per i cristiani, è un segno di pace che ha una conseguenza anche politica per il mondo. Infatti. E si dice che dopo Cuba ci sia un altro disgelo all'orizzonte, questa volta col Cairo. Tu ne avete parlato, lo sai. Non abbiamo parlato, però sì, è stato anche detto che c'è questo tipo di disgelo e c'è una trattativa in atto anche per la possibilità di un incontro. Ecco, parlando della strategia del Papa con l'Islam, sembra che per contenere lo jihadismo il Papa punti molto sulle potenze ortodosse sciite, cioè la Russia e l'Iran. È così? È così, ma non è solo così. A me sembra che il Papa non abbia una strategia geopolitica se non quella della cultura dell'incontro, e lui getta ponti con chiunque mostri perlomeno un minimo spiraglio di dialogo. Però con molta libertà. Poi diventa politica. Certamente questo ha delle conseguenze politiche. Per abbiamo esempio, visto come non il ha... suo rapporto con Putin ha fermato i bombardamenti su Assad. Certo, io devo dire che mi stupisco come si possa pensare di fare la pace in Europa o nel mondo isolando Putin. Quello anch'io me lo chiedo. Ecco, la Cina è l'obiettivo finale del Papa. È un obiettivo importante, ma non per fare un viaggio, per mettere una bandierina, no. Per facilitare la vita dei cristiani, dei milioni di cristiani che vivono lì. Intanto il Papa ha compiuto molti gesti di amicizia verso gli islamici. Francesco, che sentimenti ha nei loro confronti? Ma certamente ha dei sentimenti di amicizia che sono nella tradizione del dialogo interreligioso anche dei suoi predecessori, considerando il fatto che insomma gli islamici sono tanti nel mondo e dunque non si può secondo me non dialogare con assolutamente questo. Ecco, ma in questa visione però l'Europa sembra lontana dall'orizzonte culturale certamente pastorale di Papa Francesco, è vero? Non credo, apparentemente era così nel primo periodo, oggi invece il Papa, parlando per esempio dell'immigrazione dei profughi, fa un grande richiamo all'Europa perché non dimentichi i valori che l'hanno fondata. Senti Andrea, ti sei fatto un'idea dei rapporti reali che esistono tra Papa Francesco e Ratzinger? Lui ne ha sempre parlato con una grande tenerezza, con una grande tenerezza. I due si incontrano di tanto in tanto, si sentono, si scambiano messaggi e il Papa ha sempre parlato di questo suo predecessore in casa, se vogliamo così, certo, come la figura di un nonno saggio. E dunque credo che questo sia profondamente vero. Ma secondo te Ratzinger ha un ruolo nella Chiesa oggi? Io non credo abbia un ruolo se non quello, come lui stesso ha detto, di pregare per il successore e pregare per la Chiesa. In questo senso sì. Ratzinger, al momento della sua nomina, di Ratzinger, ha parlato dei lupi che c'erano intorno a lui. Ci sono più o meno lupi intorno a Bergoglio, secondo te? Io credo che ce ne siano ancora, e però dobbiamo abituarci a guardare con uno sguardo un po' rivolto alla storia e non solo alla cronaca. Tutti gli ultimi papi hanno avuto resistenze, soprattutto all'interno della Chiesa. Infatti. Benedetto XVI nel 2010, nel pieno della crisi di pedofilia, disse delle cose che non piacquero ai sedicenti ratzingeriani, dicendo che la più grande persecuzione della Chiesa veniva dal peccato all'interno della Chiesa. Non è stato ascoltato né capito. Volutamente, probabilmente. Sì, perché faceva comodo schiacciarlo su un certo cliché. Certo. Ma quanto la Chiesa struttura segue veramente Papa Francesco? Tutti dicono che bravo, però... Certo, il problema è veramente questo. Tutti dicono che bravo, pensano che si possa ridurre il pontificato a slogan, si cambia qualche parola chiave, si mette periferie, si mette nel frullatore e viene fuori lo stesso frullato. La realtà è il Papa chiede una conversione del cuore ben più radicale dal punto di vista evangelico. Ma lui la sa, la sente questa resistenza forte? Credo che la senta, e cosa la dice? Conosce all'interno del Vaticano, all'interno della Chiesa. E al tempo stesso crede di dover portare avanti il suo compito, la sua testimonianza, sapendo che poi il fatto che questa possa produrre dei frutti dipenderà dal non essere lui soltanto un uomo solo al comando, ma che tante persone comincino a seguirlo. Ma tu che segui professionalmente il Vaticano, seguono o fanno finta? Io credo che ci sia tanta gente buona che segue e anche gente che fa finta, che resiste, e anche gente che spera che bisogna aspettare che finisca, passi la nottata per ritornare magari a un certo tran tran precedente. Senti, Francesco è anche un papa che parla dell'imperialismo internazionale del denaro, Quindi fa paura a molti. Le parole di Trump in campagna elettorale ne sono state la prova. È una guerra con Wall Street. Ma bisogna ricordare che quelle parole non appartengono alla teologia della liberazione o a qualche teologo comunista, ma furono scritte da Pio XI, papa molto duro con il comunismo, nel 1931. E dunque il papa tiene conto di tutta la dottrina sociale della Chiesa, anche di pagine delle quali c'eravamo forse un po' troppo dimenticati. Lui dice anche: noi sappiamo che il consumismo è un cancro della società. Comunque è un'altra bella botta. Sì, è una botta, e la cosa che lui dice è che non bisogna idolatrare il denaro al centro dell'economia. Lo diceva anche Gesù. Certo, tra l'altro, sì, non ci deve essere il denaro, ma ci deve essere l'uomo al centro dell'economia. Questo ecco, è. Ma in che cosa si vede soprattutto il suo essere sudamericano? Io credo, io sono contrario a enfatizzare questo aspetto, perché è un modo con cui lo richiudi. Voltiva, dicevi che era polacco, questo è come dire, non ci capisce, per cui noi continuiamo a fare come vogliamo. Questo è il modo di. Però io credo che questo suo essere sudamericano arrivi da questo suo insistere che il centro si capisce bene dalla periferia. Sì. Ecco, quindi si può dire sostanzialmente, se ho capito quello che hai detto, che rimettere gli umili al centro della sua pastorale praticamente ha solo rimesso al centro la dottrina sociale della Chiesa, che era tenuta un po' nascosta. Sì, c'è una rivalutazione della dottrina sociale della Chiesa e anche dei padri della Chiesa. Ci sono delle pagine di Sant'Ambrogio, San Giovanni Crisostomo, che lette oggi sembrano leniniste, però sono i padri della Chiesa. Lenin è venuto dopo. Un po' dopo. Senti, ma c'è secondo te in Papa Francesco una visione del capitalismo come di un malato in coma irreversibile? No, in coma irreversibile no. Lui invita però a porsi delle domande e a cercare di correggere l'attuale modello di sviluppo a partire da una constatazione: se non facciamo qualcosa di strutturale, siamo destinati a passare da una crisi a una crisi ancora peggiore. Non è che lasceremo il nostro mondo ai nostri nipoti, non ci sarà nessun mondo da lasciare. Però senza una crescita dell'economia i problemi dei poveri restano impossibili da risolvere. Assolutamente sì, infatti il Papa non è rivoluzionario nel senso che vuole abbattere il sistema, vuole però far sì che il sistema abbia al centro l'uomo e non il denaro. E attualmente, se si guarda il mondo dell'economia e della finanza, mi sembra che non sia così. Senti Andrea, nel tuo incontro con Papa Francesco avete parlato del significato delle sue parole sulla terza guerra mondiale a pezzi? No, perché il tema era più sulla misericordia, però ne abbiamo parlato più volte nelle interviste sull'aereo, e mi colpisce il fatto che ogni volta che glielo chiediamo lui dica che questi pezzi stanno diventando sempre più grandi. E anche nella dichiarazione comune firmata con il patriarca di Mosca si parla di questo, e in effetti è un campanello d'allarme, ma se si guarda al mondo è una guerra, è così, che si avvicina. Senti, diversamente da tutti gli altri papi e gli altri giubilei, Papa Francesco non spiega chiaramente cosa sia l'indulgenza e non dice come la si ottiene. Secondo te perché? Ma in realtà ha detto che l'indulgenza si può ottenere oltre che nei soliti modi, cioè la confessione, la preghiera per il Papa, ma anche con le opere di misericordia spirituale e corporale. Questo l'ha detto, diciamo, ha aggiunto dei motivi per ottenere l'indulgenza. Senti, con l'Oscar che ha avuto Spotlight, che svela il caso della pedofilia coperta dalla gerarchia ecclesiastica a Boston, è esploso il problema dei pedofili coperti dalla gerarchia della Chiesa. Ecco, la Chiesa di Francesco non insabbierà e non nasconderà più veramente? Bisogna dire che Spotlight parla di una situazione che era quella all'inizio del 2000, si finisce con il 2002. Grazie a Ratzinger cardinale e poi a Ratzinger papa, la Chiesa ha preso delle misure molto dure. C'è una legislazione d'emergenza che persino tocca, non rispetta neanche più tutti i diritti della difesa in questi casi. E dunque credo che con Benedetto e con Francesco si stia dando una risposta di prevenzione molto forte. Ma c'è ancora molto da scoperchiare, secondo te? Fatti del passato probabilmente perché c'era purtroppo un andazzo una mentalità che era quello di coprire per non fare scandalo e soprattutto di non aiutare, di non essere vicino alle vittime. Questa è la cosa scandalosa. Francesco ha chiamato questi reati e questi peccati sacrifici diabolici commessi in confronto alle vittime, con delle parole che nessuno aveva mai usato. Senti, qualcuno pensa che la riforma della nullità del matrimonio porti a una sorta di divorzio cattolico, insomma. È vero? No, e sono molto sorpreso di questo, perché una riforma del sistema canonico delle nullità era stata chiesta universalmente dai padri del sinodo, e quella scelta dal Papa è una linea mediana, neanche troppo radicale, perché c'era chi, pensiamo a, per esempio al cardinale Scola, aveva chiesto che fosse affidata ancora più responsabilità al vescovo diocesano. Dunque io non vedo questa preoccupazione. No. Senti, parlando delle lettere scambiate per 30 anni tra Wojtyla e una donna sposata, Papa Francesco ha detto che anche il Papa ha bisogno di un'amicizia, dell'amicizia di una donna, e che l'amicizia con una donna non è un peccato. Hanno fatto scalpore quelle lettere scritte da un Papa appena fatto santo, oppure no? No, se si guarda la storia dei santi, ci sono delle lettere, degli scambi di Padre Pio, un altro santo che abbiamo citato prima, con donne che sono una corrispondenza, sembra una corrispondenza d'amore. Ed era una corrispondenza molto casta. Dunque io non credo che ci sia nulla che faccia scalpore, anzi, diciamo che a far scalpore è un certo clericalismo che sembra che appunto che non possa esserci un'amicizia vera con una donna, che non ci possa essere che non ci si possa scambiare ad essere sinceri nei sentimenti, certo, pur senza andare a letto insieme. Invece, certo, diciamo, tutta la storia della Chiesa testimonia il contrario. Pensiamo a Francesco e Chiara, certo, insomma, per cui non c'è nessuno. Wojtyła aveva questa caratteristica, era un uomo, questo certo, non c'è dubbio, si vedeva. Senti, ma in Italia però se ne è parlato poco, un po' di autocensura di voi quirinalisti vaticanisti. Sinceramente non credo. È vero che eravamo in Messico quando è scoppiato, per cui se ne sono occupati i colleghi che erano rimasti più a casa, però io devo dire, personalmente ho fatto fare un articolo sul nostro sito Vatican Insider a questo riguardo, però a me non sono cose che hanno particolarmente colpito, come se fossero una... la BBC l'ha lanciato con molta enfasi. Sì, certo, sì. Quindi insomma... Però tu eri in Messico, ma il primate del Messico è stato durissimo contro il Papa. In effetti è uscito questo editoriale sul settimanale diocesano, molto duro. Il Papa ha fatto un discorso ai vescovi messicani molto chiaro, chiedendo di cambiare, chiedendo di chinarsi sul popolo, di non avere la logica di principio e di non pensare sempre soltanto agli accordi di potere. È vero, però il primate gli ha detto: sì, qui i cattolici sono l'80%, in Argentina da te diminuiscono a vista d'occhio. Sì, è stato un colpo molto, mamma mia, molto forte. Botta risposta. Sì. Senti, ma secondo te Papa Francesco è disponibile ad accogliere un cambiamento anche sulla questione delle donne nella gerarchia della Chiesa? Dipende cosa si intende di gerarchia. Lui ha detto molto chiaramente che vuole valorizzare le donne in ambito teologico e nell'ambito della Chiesa. Io non credo che questo significhi, perché l'ha detto gerarchicamente, vuol dire farle prete, o la stupidaggine, che, perdonatemi la parola, che si dice sempre, di farle cardinale. Quest'ottica di pensare che la valorizzazione della donna passa attraverso la carriera, il cardinalato, è un'ottica molto clericale e molto, alla fine, molto maschilista. Io credo che di fronte a Madre Teresa di Calcutta tutti i cardinali si dovevano inginocchiare. Lo facevano. Senti, ma c'è un papa del passato al quale secondo te Francesco somiglia o vorrebbe somigliare? Io credo che dal punto di vista del magistero Paolo VI e l'Evangelii Nunziandi, l'ansia evangelizzatrice. Poi sull'aspetto della misericordia Papa Luciani, e per un Papa Luciani molto, è molto, è anche molto citato nel libro, aveva delle parole sulla misericordia molto forti. E poi credo che come capacità di contatto con la gente, di semplicità, anche un po' Giovanni XXIII. Senti, un'ultima domanda a te. Per te qual è il Papa al quale ti senti più legato? Io sono veneto, mi ha sempre colpito la figura di Giovanni Paolo I, nonostante i suoi soli 33 giorni, un magistero straordinario, per cui dico sicuramente Papa Luciani. Grazie. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS pubblicità.